Il 23 e il 24 febbraio, quindi questo venerdì e questo sabato sera, al TPO di Bologna ci sarà un grande evento. Si può definire a metà tra un festival musicale e una grande festa di compleanno organizzata per festeggiare Matteo Romagnoli, che è stato manager discografico e fondatore della storica etichetta discografica Garrincha Dischi. Matteo è scomparso nel giugno del 2023 e ha lasciato un grande segno in tutti coloro che ha conosciuto, dal punto di vista professionale, quindi legato alla musica, che personale. Proprio per questo, gli artisti che nel tempo, dal 2008, sono passati attraverso questa etichetta discografica, hanno deciso di ricordarlo e festeggiarlo proprio con la musica. Da qui nasce Impubblicabile, una serata doppia, quindi sia venerdì che sabato sera, in cui gli artisti canteranno, suoneranno insieme per festeggiare il suo compleanno e riunirsi nel ricordo. Tra questi artisti c'è anche Cimini, che è con noi in collegamento. Ciao Federico. Ciao, ciao a tutti. Questa festa di compleanno è stata organizzata da un lato per un fine benefico, infatti i ricavati dei biglietti delle due serate andranno all'Associazione Nazionale Tumore Desmoide, e anche per onorare la memoria di Matteo. Ti va di raccontarci che ruolo ha avuto nel tuo sviluppo professionale e anche personale, se è un ricordo che ti sta a cuore? Guarda, intanto parlare di Matteo è sicuramente una cosa che fa venire un pochino i brividi in questo momento. Abbiamo passato mesi particolari, mesi pesanti, e ricordare una persona che ci è stata così vicina, che una persona così vicina anche di età, un amico che se ne va, è sempre brutto da viverselo in generale. Matteo era una persona splendida, una persona che riusciva a stare vicino agli artisti nel momento di necessità, e lui se ne accorgeva. E non, era bellissimo farci tante cose con Matteo, uscirci la sera, che è il motivo per cui lui ci siamo conosciuti. Ci siamo conosciuti in mezzo ai bar, in mezzo alle birrette, come si come insieme con i ragazzi dello Stato Sociale, che nel tempo e negli anni e nell'alcol sono diventati serale, sono diventati miei amici e fratelli. E all'inizio pensavo di non piacere tantissimo a Matteo, mi dava dei consigli sulle canzoni che ascoltava quando ancora non facevo parte di Garrincha, però mi faceva capire che forse non era il massimo del suo ascolto, la mia produzione musicale di allora. Dopodiché, da un momento all'altro, è stato il primo a credere in me, è stato il primo a portarmi su un palco importante, come ad esempio quello del 1º maggio, avvisandomi 2 giorni prima di salire su quel palco lì a Roma. Incredibile, è stato il primo a credere in una produzione di nuove canzoni, chiedendomi poi di far parte della famiglia che è diventata la mia famiglia, Garrincha Dischi, e di cui continuiamo sempre a far parte, e questa è una cosa molto importante. Matteo era una persona che sapeva chiedere scusa quando sbagliava, e fidatevi tutti quanti, sapeva sbagliare Matteo, ma sapeva chiedere scusa. È stato uno dei, de, delle, è stata una delle persone che in qualche modo riusciamo a sentire sempre accanto, e ricordarlo, il modo migliore per ricordarlo, l'abbiamo capito subito, era festeggiarlo. Quindi festeggeremo il suo compleanno il 23 e il 24 febbraio. Lui è nato il 26 febbraio, come me, condividevamo anche la stessa data di nascita, e come nel migliore delle nostre tradizioni faremo tardi al TPO per 2 giorni, urlando, spero di piangere il giusto quel giorno lì. Sarà anche emozionante perché poi si ricongiungeranno tante strade di chi magari poi nel tempo è andato in città diverse, in etichette diverse, sarete tutti lì. Come è nato il progetto di queste 2 serate? A chi è venuta l'idea? L'idea io non l'ho concepita personalmente, però nei giorni in cui Matte purtroppo ci ha lasciato, ma forse qualche giorno dopo si sentiva parlare, già io sentivo parlare, parlavamo, chiacchieravamo dell'idea di doverlo ricordare facendo un evento che radunasse tutte le persone. Probabilmente l'idea è uscita in maniera naturale un po' a tutti. Dopodiché i ragazzi dello Stato Sociale, che sono stati i ragazzi più vicini a Matt, nel corso dei giorni della storia, hanno poi messo su tutto questo evento, ma l'intento, al di là dei fini benefici che sono fantastici ed è il minimo che potessimo tutti quanti fare, era riuscire a radunare tutte quelle persone che sono passate nel bene e nel male dalle grinfie di Matte, e in cui è rimasto qualcosa, perché Matte davvero, non lo dico per retorica, ma ha lasciato qualcosa in ognuno di noi. Quando si passa da Rinciadischi davvero si parla di famiglia. A volte nelle famiglie si sta bene, a volte si può stare male, a volte si festeggia, altre volte si litiga. E come succede nelle migliori famiglie, ecco, Garrincia è una migliore famiglia, all'interno succedeva tutto. So che quando sono stati sparsi gli inviti a tutti gli artisti che hanno fatto parte di questa grande casa, tutti hanno risposto sì, e tutti ci saranno, tutti ci saremo, è il minimo che potevamo fare, e lo faremo facendo il massimo, dando il massimo, e ci siamo tutti, è fantastico, dagli Exotago allo Stato Sociale, all'Officina della Camomilla, all'Orso che si riunirà per quell'occasione, ci sarà Mescolanza, ci siamo io, Carnesi, lo Stato Sociale, la rappresentante di lista. Tutti, cioè, sarà bellissimo, ne dimentico tanti. Sarà bellissimo, quindi io rivolgo un invito a chiunque ci stia ascoltando, i biglietti sono ancora disponibili, per il momento c'è la possibilità di acquistare un biglietto unico per entrambe le serate, oltre all'idea benefica che sta alla base di questo evento, per festeggiare una persona che è stata fondamentale per la vita musicale di tanti artisti che sono passati per Bologna, per ricordarlo attraverso la musica e attraverso lo stare insieme. Grazie mille Federico per essere Grazie stato con te. Noi e per esserti un po' raccontato e soprattutto per aver ricordato Matteo. A questo punto ci vediamo il 23 al TPO. Ci vediamo lì. Grazie per il brividino che mi hai fatto provare oggi. Grazie.